più ragazzi, mandatemi via, mandatemi via, son malato, non so di che, mandatemi via, mandatemi via, son rovinato, son stanco di piccone di miniera, voglio l'aratro, voglio la sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo è il segno, se si tardasse a togliere ogni dicatelo. Domani al campo tu spargi la voce. Ragazzi, siete buoni! Dallo, fuori! Dillo, via! Dallo, via! Un poker! Nick, gettoni! Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. Come sta la ragazza? Grazie, bene. Grazie, bene. Che nuove del bandito? Da tre mesi l'ha posto, non è molto nascosto. Con che ruba come un gran signore, le spagnuolo, la banda di ladri a cui comanda e messicana, che caccia gagliarda sputa pronta tutto, state in guardia, io mi sdraio, sono stanco. Con la salute. sfrappato, no, faccia di cinese, mi risiede, doccia di verde razzo, e questi che amore, mi compagnisco, di questa zizia, e sono i tempi, e solo se mai vedo giunto, intendi, e buon per te, chi non puri le offese degli ubri api, thank you. quarantunesimo di David. Harry, ricordi chi era David? Era un re dei tempi antichi, un vero eroe, che quando era ragazzo armato si una mascella da si dico dico a poco una gigante all'avanzò. Che confusione, siedi a posto giù, ora leggiamo. Per sette secondi e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate. Vendete di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine, papagallo, siamo a dito. Scusa, senti, ci spera, e poi senti, qualcosa mi sta discutendo. Che ne costruito? Al mio paese, ma che faranno la città? Oh, veracchiti! Bene, non troppo giù. Ci sono notizie, notizie tristi. Ciò che c'è, brutte cose, superaggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi maschi? C'è quello che gli ho detto, alla polca si beve il whisky schietto. Ben bene, gli aggiusteremo i ricchi. Cammino, sol dal fascino dell'ora. E questo il sole non m'ha ingannato, che qui si sa il nome della gente. Janssen! Janssen! E poi? Vengo da Sacramento! È venuto fra voi! Janssen di Sacramento! Grazie! Mi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate! E come non potrei, fu bel sentier che ben avvotterei. Fu nel tornare, offriste un primo di Gesolino. E poi vi dissi, andiamo a cogliere le more. Ma io non venni. Ricordate, signore, come adesso io ripresi il cammino, voi dicevate, non ricordo più. Sì, che lo ricordate, dissi che da quell'ora non avreste scordato. Devo scordare. Mai, mai! Quando tempo sperai di rivedervi e non vi vidi più. Mr. Janssen, voi m'avete seccato! Sono Ren Sheriffo, non mi lascio burlare. E venite a far qui! Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare perché si trova il danno. Chi è? Dovremo cantar. Io lo conosco, Innanzio Campo il Peru, sto garante per giunto. Buonasera, Mr. Johnson. Ragazzi, buonasera. Non piacere per lui. Questo cialtrone spegnerà quel fare da padrone. Mr. Johnson, un valzer. Attento. Io, scusatemi, voi non lo credete, non ho mai ballato in vita mia. Andiamo pure. Musica, pipì, dov'è? Dentro che balla quel pan di Pelofino, giunto da Sacramento.